fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. È l'1:56 del mattino, sabato 6 ottobre del 2018, questa è Risto Radio Convento, io sono Master Nick, abbiamo ancora un po' di tempo per chiacchierare con i nostri festeggiati e i nostri ospiti ed è arrivato il momento di farlo con un'altra ragazza, con un'altra sposa che andiamo a conoscere un po' meglio. Benvenuta! Grazie, ciao! Oh, senti com'è bella sorridente, bella gioiosa. Allora, come ti chiami intanto? Ilenia. Da dove Ilenia? Da Padova. Oh, benissimo, l'ho già detto, mi sono già bruciato con le mie mani, quello che festeggi l'abbiamo già anticipato, quindi ti sposi, dici un po' con chi e quando? Allora, mi sposo con Marco il 10 di novembre e niente, io e il mio futuro sposo lavoriamo anche assieme. Infatti questa è un po' la chicca che volevo approfondire durante questa intervista, dici un po' che cosa fate perché è davvero interessante. Niente, noi da quasi 3 anni abbiamo avviato un'attività, è una fioreria a Padova. Fioreria, quindi vendete solo o... cioè nel senso fate anche consegne, sì, allestimenti? Certo, assolutamente, sì. Quindi tutto quello che... Sì, fiori, piante, allestimenti per eventi, matrimoni. Ok. Due domande, da dove nasce questa passione e da dove nasce poi l'idea di aprire l'attività? Nasce principalmente da lui, da un'esigenza un po' così di fare qualcosa di nostro e niente, siccome stavamo cercando un po' tutti e due, venivamo comunque da altri percorsi, ma alla fine ci siamo un po' ritrovati a fare questa cosa assieme e ci è piaciuta e abbiamo continuato. Quindi la passione però è sua, non tua. Cioè tu ti sei un po', non dico attaccata, aggregata, però sì, no, sì, beh, sì. Insomma, ti sei coinvolta piano piano. Esatto. Però sì, lui sì, è appassionato di fiori. L'idea è stata partita da lui, sì. Ok. Non voglio, però mi piace anche fare domande un po' scomode. Non è molto complicato lavorare anche col proprio compagno? Cioè, abbastanza. Non c'è il rischio di parlare sempre delle stesse cose ed esaurire un po' i discorsi? No, di esaurire i discorsi no, però c'è un... bisogna un po' capirsi tra quello che è il lavoro e quella che è poi la propria vita privata. Riuscite a scindere? Sì, no, devo dire che siamo molto soddisfatti. Bravi. No, mi piace questa cosa, mi incuriosisce anche perché vi siete, anche qui, perdonami, non voglio toccare sempre tasti dolenti, però vi siete presi un bel rischio. Eh sì. Nel senso che siete, diciamo, di solito si dice un piede in due scarpe, e voi invece avete tutti e quattro i piedi in una scarpa sola, quindi se dovesse diventare stretta diventa complicato. Però un bel coraggio, bene. Avete avuto un gran bel coraggio, veramente, vi invidio e vi stimo per questo. Grazie. E dai, facciamo un gioco, visto che sei del settore e il numero ce lo permette. Hai qui 3 amiche, dici un po' che fiori rappresentano e come mai. Anche allora, presentacele anche magari col loro nome di battaglia. Allora, sono le mie amiche e con loro, diciamo, sono... le mie amiche di danza, nel senso, ah, sì, ho condiviso la nostra passione, che è quella della danza, per tanti anni. Hai condiviso o condividi ancora? No, abbiamo condiviso, ad ora non facciamo più danza. Nessuno di quattro, delle quattro? No, non come prima, o meglio, una delle tre continua a fare musical, giusto Jenny? Sì, perfetto. Oh, bello. Sempre nella vostra zona Padova? Sì, okay. Esatto. E che danza praticavate insieme? Contemporaneo, moderno, classico, okay. Un po' di tutto. Ah. Sì. Quello che passava, insomma. Dopo un po' di anni, insomma, era insomma molto impegnativo continuare. Immagino. E quindi direi che sono tutte delle rose, perché sono belle ed eleganti. Belle ed eleganti, mi piace. E io continuo perché mi piace veramente questo argomento. C'è un po' questo modo di pensare, di dire che tutti i fiori hanno un significato. È veramente così o è un po' attaccarsi a quello che un fiore vuol dire? Perché a volte è un problema. No. Nel senso che a volte ti viene il pensiero di regalare un fiore e poi ti fermi e dici cacchio, però non è che se magari prendo quello sbagliato che vuol dire questo, cioè alcuni ci credono davvero, però sì, non è, almeno io la vedo, non è così rigida la cosa, anche perché adesso ci sono talmente tante varietà, tante tipologie, tanti colori, sfumature, che quindi non sarebbe neanche giusto focalizzarsi troppo su un'unica cosa, ecco, quindi si va un po' oltre al significato che magari si era attribuito magari negli anni precedenti. Però confermi che alcuni ci siano abbastanza attaccati. Sì. La come rosa quelli rossa è rimasta, vabbè, quello, okay, sempre il simbolo legato all'amore, alla passione, però insomma ci sono tantissimi altri fiori. Sì, che è un po' come quelli che non attraversano la strada se passa il gatto e la scala, e ci sono alcune cose che non... Fortuna non ci capitano molti clienti così. Boh, io a volte lo sento dire che... Cioè, nel senso, porti un fiore, ah, occhio, perché quello vuol dire, no, no, semplicemente regalato un fiore, quindi ti viene anche un po' paura di sbagliare a volte, o di prendere la cosa sbagliata. Chi saluta dentro? Delle altre nostre amiche che non... Ah, c'è anche gente che è rimasta fuori? Sì. Oh, no, presentaci anche loro, salutacele, che non le abbiamo... Le mie compagne di università, no, di università e delle superiori. Si chiamano, si chiamano? Giulia, Elena, Claudia. Giulia, Elena, Claudia. Oh, guarda, dai, che le facciamo entrare anche loro. Scusate se sentirete un po' di trambusto per qualche secondo. Siamo in radio, Giulia. Stiamo facendo una riunione di condominio, perché quello del secondo butta lo sporco nel modo scorretto. Basta, è un po' piccante, però adesso ho più sete. Hai sete? Qui non serviamo da bere. Hai capito? Tra poco tornano a ballare. Lei chi è, quindi? È Giulia, l'amica d'università. No, delle superiori. Delle superiori, scusa. E che scuola avete fatto insieme? Abbiamo fatto liceo delle scienze sociali. Chi era più bravo? Lei. Ex convento. Lei era sì, più brava. Sì, la Giulia era number one. La Giulia era number one. Brava, essa è maestra. Beh, quindi sei andata avanti nel... Purtroppo, addirittura, non ti piace. Basta, cioè. Più uomini ci vogliono più uomini. Vedi, devi trovare qualcuno appassionato di fiori. Ma no, anche tu. C'è. Basta che ti metti la cuffia. Ce n'hai una lì. Io mi sono innamorato della Giulia. Ecco, vedi. Come ti chiami? Giulia. Sì, però se parli al microfono ti senti meglio. Allora, io sento sempre la radio e dico che è proprio figo lavorare in radio. Vai. Perché a me non piace sapere che la gente mi sta guardando. Però sì, mi piace quando la gente ha delle voci fighe. Sì. E le riconosci e dici, cazzo, ma che bella voce che ha quello. E dopo la mattina, senza guardare che radio stai girando, ti ricordi della voce di quello. È figo la radio. Cioè, perché alla fine io posso essere vestita qua come una stracciona, nessuno lo sa, posso essere una bruttona cicciona, nessuno lo sa, però hai una bella voce e tutti ti ascoltano. È vero. Incredibile, è perfetto. È vero, è vero. Ma perché l'avete lasciata fuori? Dovevate portarla prima. È andata in bagno. È sbagliato andare in bagno, si va sempre in bagno nei momenti più sbagliati. No, veramente non dovevo neanche andare in bagno io. No, così, hai fatto una gita. Ho sbagliato la mia amica. Ecco, perché l'altra cosa che dovete sapere è che ogni donna non va mai in bagno da sola. E ancora non si è capito cosa fanno una con l'altra in bagno, perché una tiene la porta e l'altra no, quando nel 2018 ogni porta ha una serratura. Però bisogna tenersi la porta e questo è un... Come te lo spieghi, Giulia? La serratura può bloccarsi. E allora le donne, se sanno che c'è la sua amica fuori, si sentono più tranquille. Madonna, poi, vedi, lei è quella del gatto nero. Hai mai letto quello che ha scritto la Littizzetto su perché le donne vanno in bagno? No, no, dimmelo, raccontami. Allora, adesso, era molto lunga, ma tu hai mai provato ad andare in bagno con la borsa, il cappotto, la carta igienica? Sì, è complicato. Avevi portato la carta igienica in borsa? Aspetta, no, prendi la carta igienica che sei un po' accovacciata, perché non è come l'uomo. Che certo, certo. Una serie di cose per cui se tu ti leggi tutto quello che ha scritto la Littizzetto, alla fine dici, cazzo, ma sono parole sante, è proprio vero che c'è bisogno di... Ma lei ha da fare sabato sera? Perché la vogliamo qui. Allora. Ma quello che vuoi, ti do anche tutta la mia parte di stipendio. Guarda, mi paghi da bere, sì? E siamo a posto. Non so se ti convenga perché bevo tanto. Vabbè, ma tu non ti preoccupare, qualcosa che c'è. Ma l'altro, cazzo, cambio mestiere, io faccio la maestra. L'avevo capito perché me l'ha detto prima. E non ti piace, hai detto troppe femmine. Mi piace il mio lavoro, però devo avere una bella voce squillante, quindi potrei anche fare radio perché ho la voce squillante. Non ci sono caratteristiche per fare radio, non serve una voce particolare, serve avere qualcosa da dire e tu ce l'hai, vedi, quindi è perfetto. Io sempre qualcosa da dire. Vedi? Vai, allora, visto che ti piace la radio, approfittiamone, fammi una bella dedica a Lilenia. Parte con una risata, già direi che c'è del sentimento. Allora, oggi è arrivata, non avevamo ancora fatto niente per lei, l'avevamo solo portata a Desenzano nel Garda, sì, in un albergo, e ha cominciato a dire, vi voglio... Mi piace tra l'altro che sta trovando parole nuove, Desenzano del Garda è diventato nel Garda. perché giustamente. E l'albergo è diventato l'albergo. Che... No, quella è perché mi sono bevuta due bottiglie, esatto, di rosso da sola. Esatto, cioè, capire. Okay, perché le ragazze bevono poco e quindi io ho bevuto quello che c'era nel tavolo. Giusto, perché è brutto lasciarlo. Poi i bambini dell'Africa, no, sei sempre e poi mai più un veneto va a casa dicendo bevono poco i veneti, non se ne può, cioè sta giusto, cosa non, giusto, non si può sentire. Giusto. Comunque alla Ile le dico che cazzo, stavo facendo prima il conto di quanti anni ci conosciamo. Non sono riuscita perché c'erano troppi anni da andare indietro, penso dal 2002, quindi tipo siamo nel 2018, 16 anni che ci Madonna. Conosciamo, ma alla fine cazzo, vado fra un mese al suo matrimonio, gli voglio un sacco di bene, sono strafelice di essere qua con lei e spero che gli sia piaciuta questa super sorpresa che le abbiamo fatto. E grazie aspetta Giulia! Aspetta che vengo meglio il segnamento perché il mento, se no si vede il doppio mento, se la mia amica mi fa anche il video. E le voglio un sacco di bene e le ragazze qua sono fantastiche e gli ho detto che dobbiamo trovare ogni mese un finto addio al nobilato, anche se non è sì. vero, per venire a far festa. Tranquilla, già tanti lo fanno, esatto, e quindi non sareste nelle prime e nelle grazie, ultime, grazie. Ma almeno sareste donne, perché di solito lo fanno gli uomini, e quindi no, è più interessante, è più interessante se lo fanno le donne. Assolutamente sì. Bene, in tutto questo ricordiamo che la festa è dell'Ilenia, non è della Giulia, perché adesso si è presa la scena, ma è stato bellissimo anche esaudire questo piccolo sogno. Ricordiamo anche che il ragazzo qui fuori è il vostro regalo di fine serata e quindi ve lo troverete. Ciao, a fare. A me non mi piacciono quelli bianchi, mi piacciono quelli di colore, comunque il mio. Ma non è bianco, ha solo la camicia bianca. No. È troppo bianco, è troppo. Adesso comunque c'è un servizio di lampade già compreso nel prezzo e vi facciamo fare un paio di lampade, non ti preoccupare. Allora ragazze, grazie mille, grazie per essere state con noi. Ilenia, vuoi fare un saluto, vuoi dire qualcosa? Sì, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando e le mie fantastiche amiche che hanno organizzato questa bellissima giornata. Che per me era all'oscuro di tutto, quindi fantastica. Soprattutto sta trovata dalla radio, ragazze. Me la ricorderò, me l'hanno affigata, me la ricorderò per sempre. Grazie. Bene, bene, bene. Io ringrazio voi e saluto voi. E alla prossima festa, anche perché da quanto ho capito qualcuno si sposerà presto, in modo finto, in modo vero, ma succederà. E quindi vi rivedremo presto con grosso piacere. Torneremo. Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao.